Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Col martedì venne la gradita prospettiva di rivedere Frank Churchill, e per più tempo di quanto le fosse finora accaduto, di giudicarne il modo di fare in generale e, per riflesso, il significato del contegno da lui tenuto nei suoi riguardi, di stabilire su per giù quando poteva essere necessario mettere un po' di freddezza nella propria aria e di immaginare quali potessero essere le reazioni di tutti coloro che per la prima volta li vedevano insieme. Emma prevedeva di divertirsi molto, per quanto la scena si svolgesse in casa Cole, e pur non riuscendo a dimenticare che, fra le mancanze del reverendo Elton, anche nei suoi giorni di grazia, nessuna l'aveva urtata più della sua inclinazione a pranzare col signor Cole. Emma fu ricevuta con un rispetto cordiale che non poteva non farle piacere, e le fu data tutta l'importanza che poteva desiderare. Quando giunsero i Weston, il più tenero sguardo d'amore, il più vivo sguardo di ammirazione del marito e della moglie furono per lei, mentre il figlio le si avvicinò con un allegro zelo che la indicò agli occhi di tutti come il suo oggetto preferito, e a tavola se lo trovò seduto accanto e fermamente credeva non senza un abile colpo di mano. La compagnia era abbastanza numerosa, comprendendo un'altra famiglia. Una famiglia a modo di signori di campagna che i Cole avevano il privilegio di contare fra le proprie conoscenze, e la parte maschile della famiglia del signor Cox, l'avvocato di Highbury. Le donne di minor riguardo dovevano arrivare di sera con Miss Bates, Miss Fairfax e Miss Smith. Ma già a pranzo erano in troppi perché un solo argomento di conversazione bastasse per tutti. E mentre si parlava di politica e del reverendo Elton, Emma poté legittimamente rivolgere tutta l'attenzione alla piacevolezza del vicino. Il primo vago suono al quale si sentì in obbligo di prestare orecchio fu il nome di Jane Fairfax, di cui la signora Cole sembrava raccontare qualcosa che si preannunciava molto interessante. Ascoltò, infatti, e le parve davvero che ne valesse la pena. E la parte prediletta di Emma, la sua fantasia, vi trovò un allegro pascolo. La signora Cole narrava che era stata a far visita a Miss Bates e, appena entrata, l'aveva colpita la vista di un pianoforte, uno strumento di aspetto molto elegante, non a coda ma verticale e di dimensioni notevoli. E il succo della storia, la fine di tutto il dialogo che era seguito, fatto di sorpresa e di domande e di rallegramenti da parte sua e di spiegazioni da parte di Miss Bates, fu che il pianoforte era arrivato il giorno prima, inatteso, da Broadwood, con gran stupore di zia e nipote, e che, stando al racconto di Miss Bates, la stessa Jane era rimasta lì smarrita, astrologare chi mai potesse averlo ordinato. Ma ora erano assolutamente convinte che poteva venire solo da una parte, inutile dirlo, da casa Campbell. «Non si può immaginare altro», aggiunse Mrs. Cole, «e se di qualcosa mi stupisco è che un dubbio potesse mai sorgere. Ma Jane, a quanto pare, aveva ricevuto pochi giorni prima una loro lettera dove non se ne faceva parola. Lei conosce meglio di me il loro modo di fare». Ma io non considererei quel silenzio un motivo per credere che non intendessero regalarle qualcosa. Forse volevano farle una sorpresa. Molti le diedero ragione. Chiunque parlò della cosa era parimenti convinto che il regalo doveva venire dal colonnello Campbell, e come lei si rallegrarono che un simile dono fosse stato fatto. E pronti a parlare ce n'erano abbastanza per consentire ad Emma di pensare a modo suo, pur continuando ad ascoltare Mrs. Cole. In fede mia, non credo di avere mai sentito nulla che mi desse maggiore soddisfazione. È stato sempre un dispiacere per me che Jane Fairfax, una pianista così delicata, non possedesse uno strumento. Mi sembrava proprio una vergogna, soprattutto considerando il numero di case qui da noi, dove ottimi strumenti rimangono del tutto inoperosi. È come darci uno schiaffo. Non più tardi di ieri dicevo al signor Cole che mi vergognavo proprio a guardare il nuovo pianoforte a coda in salottino, mentre io non so distinguere una nota dall'altra, e le nostre bambine, che stanno appena cominciando, forse non ne faranno mai nulla. Ed ecco che la povera Jane Fairfax, maestra di musica, non ha nulla del genere di uno strumento, neppure la miseria di una vecchia spinetta da divertircisi. Così dicevo al signor Cole non più tardi di ieri sera, ed egli mi ha dato ragione. Solo che con la sua passione per la musica non ha potuto trattenersi dall'acquistarlo, nella speranza che qualche vicino sia così gentile da farne ogni tanto miglior uso di quel che possiamo noi. Ed è appunto perciò che lo strumento è stato acquistato, altrimenti dovremmo vergognarcene. La nostra grande speranza è che Miss Woodhouse si lasci indurre a provarlo stasera. Miss Woodhouse manifestò il debito assenso. Le signore non erano da molto tempo in salottino quando in diversi gruppi giunsero le altre. Emma osservò attentamente l'ingresso di Harriet, la piccola amica del cuore, e se non poté esultare della dignità e grazia di lei, poté non soltanto ammirarne la fiorente dolcezza e i modi privi di artificio, ma a godere con tutto il cuore dell'indole leggera, fresca, ignara di sentimentalismi che le permetteva di trovar conforto nel piacere ai tormenti di un affetto deluso. Era lì, seduta, e chi avrebbe sospettato quante lacrime avesse sparso di recente? Trovarsi in compagnia, vestita bene e vedendo vestiti bene gli altri, sedere e sorridere ed essere graziosa e non dir nulla, tutto questo bastava per la felicità del presente. Jane Fairfax la superava sia in aspetto che in movenze, ma Emma sospettava che sarebbe stata lieta di cambiare i propri sentimenti con quelli di Harriet, ben lieta di acquistare la mortificazione di aver amato, sì, anche di aver amato invano il reverendo Elton, contro tutto il pericoloso piacere di sapersi amata dal marito della propria amica. Ben presto si unirono alcuni dei signori. Primo fra tutti Frank Churchill. Entrò, primo e più avvenente di tutti, e fatti i doverosi complimenti a Miss Bates e nipote, puntò direttamente al lato opposto del circolo, dove era seduta la signorina Woodhouse. E finché non trovò da sedersi accanto a lei, non si sedette affatto. Emma intuì che cosa tutti i presenti avrebbero pensato. Era l'oggetto particolare delle sue attenzioni e ognuno se ne doveva accorgere. Lo presentò alla sua amica Miss Smith e poco dopo, al momento opportuno, seppe quello che ognuno dei due pensava dell'altro. «Non aveva mai visto una faccia tanto graziosa», disse lui, «ed era incantato di quel candore». E lei, che era fargli un complimento eccessivo, certo, ma pensava che presentasse alcuni punti di somiglianza col reverendo Elton. Emma soffocò il suo sdegno, limitandosi ad allontanarsi in silenzio. Sorrisi di intelligenza passarono fra lei e lui al primo sguardo in direzione di Miss Fairfax, ma prudenza voleva che si evitassero discorsi. Frank disse che era stato impaziente di uscire dalla sala da pranzo. Non poteva soffrire di restare a lungo seduto. Era sempre il primo quando poteva ad andarsene. E aveva lasciato il padre, il signor Knightley, il signor Cox e il signor Cole, tutti immersi in questioni di parrocchia. Ma finché era stato lì, ci aveva trovato gusto, perché in genere gli sembravano un gruppetto d'uomini distinti e pieni di senno. E parlò così bene di Highbury e la giudicava così ricca di piacevoli famiglie che Emma cominciò a sentire di averla troppo disprezzata. Gli chiese della società dello Yorkshire, dell'ampiezza del vicinato di Enscombe e via discorrendo. E dalle risposte poté concludere che, quanto ad Enscombe, la vita di società vi era piuttosto ristretta. Le visite si limitavano a una cerchia di grandi famiglie, tutte piuttosto lontane le une dalle altre, e che, anche fissato il giorno e accettati gli inviti, v'era sempre una certa probabilità che Mrs. Churchill non si sentisse fisicamente o moralmente di recarvisi, che si erano fatti un principio di non frequentare persone nuove e che, sebbene egli avesse i propri impegni personali distinti da quelli degli altri, non era senza difficoltà, senza notevole tatto e solo a volte che gli riusciva di svincolarsi o di ospitare per una notte un amico. Emma capì che Enscombe non poteva pagarlo, mentre Highbury, presa nei suoi lati migliori, poteva ragionevolmente piacere a un giovane che a casa sua viveva più appartato di quanto non desiderasse. Il prestigio di cui godeva a Enscombe era evidentissimo. Non menava vanto, ma si tradiva da sé, di aver persuaso sua zia là dove lo zio non poteva ottener nulla, e vedendola ridere ammise che credeva, salvo in un punto o due, di poterla col tempo persuadere in qualunque cosa. Poi accennò a uno dei punti nei quali la sua influenza non era riuscita ad esercitarsi. Aveva molto desiderato di andare all'estero. Aveva sollecitato con ansia il permesso di viaggiare, ma lei non intendeva ragione. Ciò era accaduto un anno prima. Ora però, disse, cominciava a non avere più lo stesso desiderio. Un certo trambusto nella stanza annunziò che il tè era finito e si stava preparando lo strumento. Nello stesso istante Mr. Cole venne a pregare Miss Woodhouse di fargli l'onore di provarlo. Frank Churchill, che nel calore della sua conversazione con la signora Weston Emma aveva perso di vista, a parte il fatto che aveva trovato posto accanto a Miss Fairfax, aggiunse le sue più insistenti preghiere a quelle del signor Cole. E poiché sotto ogni rispetto meglio le si addiceva far da battistrada, Emma accettò molto di buon grado. Conosceva troppo bene i limiti delle proprie doti per tentar più di quanto potesse eseguire con successo. Nelle piccole cose che in genere piacevano non mancava né di gusto né di spirito e sapeva accompagnare bene la sua voce. Un accompagnamento le procurò una gradita sorpresa. La parte di secondo, sostenuta debolmente ma senza errori, da Frank Churchill. Alla fine del canto le fu chiesto come d'obbligo indulgenza e il solito rituale si svolse. Si accusò Frank di avere una voce deliziosa e una conoscenza perfetta della musica, il che fu da lui debitamente negato, proclamando chiaro e tondo che non ne sapeva nulla e non aveva affatto voce. Cantarono assieme ancora una volta. Poi Emma cedette il posto a Miss Fairfax, la cui esecuzione, sia strumentale che vocale, inutile tentar di nasconderlo, risultò infinitamente superiore alla sua. Con sentimenti misti, si sedette a una certa distanza dalle persone raccolte intorno al pianoforte ad ascoltare. Frank Churchill cantò nuovamente e risultò che a Weymouth avevano cantato assieme una o due volte. Ma la vista del signor Knightley fra gli ascoltatori più attenti distrasse ben presto metà della mente di Emma, ed essa si abbandonò a un corso di pensieri sui sospetti di Mrs. Weston che i dolci suoni delle voci unite interruppero solo qua e là. Le sue obiezioni al matrimonio del signor Knightley non accennavano a svanire. Non riusciva a vederci che del male. Sarebbe stata una grossa delusione per il fratello, Mr. John Knightley, e quindi per Isabella. Un vero torto per i bimbi. Un cambiamento mortificante e una perdita materiale per tutti loro. Un duro colpo al quotidiano benessere di suo padre. Quanto a lei, l'idea di Jane Fairfax a Donwell Abbey non le andava proprio giù. Una signora Knightley alla quale cedere il passo tutti quanti. No, il signor Knightley non doveva mai sposarsi. Il piccolo Henry doveva rimanere erede di Donwell. D'un tratto il signor Knightley girò la testa e venne a sedersi accanto a lei. Dapprima non parlarono che dell'esecuzione. Certo, la sua ammirazione era calda, ma non fosse stato per Mrs. Weston, Emma non ne sarebbe rimasta colpita. A titolo di controprova si mise a parlare della bontà che aveva dimostrato mettendo la sua carrozza a disposizione di zia e nipote, e sebbene la risposta avesse tutto il tono di voler tagliar corto, le parve indicare soltanto il rifiuto di dar peso a un proprio atto di cortesia. «Spesso mi duole», proseguì Emma, «di non osare in occasioni come questa di rendere più utile la nostra vettura». Non che non ne abbia il desiderio, ma lei sa come a mio padre sembrerebbe inammissibile che a tale scopo James dovesse attaccare. Neanche da parlarne, rispose lui, ma sono certo che spesso lei desidererebbe farlo. E sorrise con così evidente piacere a questa sua certezza che Emma non poté non tentare un altro passo avanti. Questo regalo dei Campbell, questo pianoforte... «È un dono quanto mai gentile?» «Sì», rispose Mr. Knightley, senza tradire il minimo imbarazzo. Ma avrebbero fatto meglio ad avvisarla. Le sorprese sono sempre di cattivo gusto, non aumentano il piacere e spesso creano notevole disagio. Mi sarei atteso più senno dal colonnello Campbell. Da questo momento Emma avrebbe potuto giurare che il signor Knightley non avesse avuto nulla a che vedere con l'omaggio del pianoforte. Ma per un po' il dubbio che non fosse del tutto esente da una particolare simpatia e che un'effettiva predilezione ci fosse permase. Verso la fine della seconda canzone la voce di Jane si velò. «Ora basta», disse lui quando fu finito, pensando ad alta voce. «Ha cantato abbastanza per una sera, stia un po' calma». Ma ben presto la si pregò di cantare di nuovo, una volta sola. Per nulla al mondo avrebbero voluto affaticare Miss Fairfax e non chiedevano che un'altra canzone sola. E si sentì dire a Frank Churchill: «Credo che questa volta potrò cantare senza sforzo. La prima parte è così poco impegnativa. Il peso del canto grava tutto sulla seconda». Il signor Knightley si stizzì. «L'amico», disse con sdegno, «non pensa che a pavoneggiarsi della propria voce non è ammissibile». E prendendo la mano di Miss Bates, che stava passandogli accanto, disse: «È pazza, Miss Bates, a lasciare che sua nipote si sgoli a quel modo. La prego di intervenire. Non hanno pietà». Emma non si pentì di aver accettato di andare dai Cole. L'indomani la visita le fornì molti ricordi piacevoli e tutto quello che si poteva supporre avesse perso dal punto di vista dello splendido isolamento le sembrò più che compensato dal luccichio della popolarità. Doveva aver dato una gran gioia ai Cole, degne persone che meritavano d'essere rese felici, ed essersi lasciata dietro un ricordo non facile a cancellarsi tanto presto. La felicità perfetta non è comune, neppure nel ricordo. E v'erano due punti intorno ai quali non era affatto tranquilla. Temeva di aver mancato al dovere della donna verso la donna, tradendo a Frank Churchill i propri sospetti sui sentimenti di Jane Fairfax, cosa certo malfatta, ma tale era stata la forza di quell'idea che le era scappata di bocca, e l'assenso dato da Frank a tutte le sue parole era un tale complimento alla sua perspicacia che le rendeva difficile esser proprio sicura che convenisse star zitti. Anche l'altra causa di rammarico si riferiva a Jane Fairfax, e qui Emma non aveva dubbi. Deprecava senza infingimenti e senza possibilità di equivoci l'inferiorità del proprio modo di cantare e di suonare. Rimpiangeva sinceramente l'ignavia della sua fanciullezza e, sedutasi al pianoforte, fece un'ora e mezzo di esercizi. La interruppe l'arrivo di Harriet, e se mai le congratulazioni di Harriet avessero potuto appagarla, non avrebbe tardato a rasserenarsi. «Oh, potessi suonare come lei e Miss Fairfax! Non ci metta sullo stesso piano, Harriet! Il mio modo di suonare non assomiglia al suo più che una lampada assomiglia al sole. Oh, cara, per me lei suona meglio, o almeno bene quanto Jane. Davvero, credo che preferirei ascoltare lei. Tutti l'altra sera dicevano che suona molto bene, Miss Woodhouse. Chi se ne intende non può non aver sentito la differenza. La verità è, Harriet, che io suono abbastanza bene per essere lodata, ma Jane Fairfax mi supera di molto. Beh, io penserò sempre che lei suona altrettanto bene, o se una differenza c'è, nessuno l'avvertirebbe. Il signor Cole ha osservato con quanto gusto suona, e anche Mr. Frank Churchill ha fatto un gran parlare del suo gusto e ha detto che attribuisce più valore al gusto che all'esecuzione. Oh, ma Jane Fairfax ha l'una e l'altra cosa, Harriet. Ne è sicura. Che sia una brava esecutrice l'ho visto, ma non che avesse gusto. Nessuno ne ha parlato e a me non piace sentir cantare in italiano. Non se ne capisce una parola. Inoltre, se suona così bene, non è più di quanto sia tenuta a fare, visto che insegnerà ad altri. Ier sera i Cox si chiedevano se entrerà mai in una grande famiglia. Come le sono sembrati i Cox? Come sempre molto volgari. Mi hanno detto qualcosa, disse Harriet esitando, ma nulla di importante. Emma si vide obbligata a chiederle che cosa le avevano detto, pur temendo che ne venisse fuori il reverendo Elton. Mi hanno detto che sabato scorso il signor Martin ha pranzato da loro. Oh, è venuto per affari dal loro babbo e questi l'ha invitato a rimanere a pranzo. Ne hanno fatto un gran parlare, specialmente Ann Cox. Non so che cosa intendesse dire, ma mi ha chiesto se pensavo di andarci anche quest'estate. Intendeva essere sfacciatamente curiosa, proprio come ci si deve aspettare da Ann Cox. Ha detto che è stato molto simpatico il giorno che è rimasto a pranzo da loro. Era seduto accanto a lei. Miss Nash crede che tutte le due Cox sarebbero ben felici di sposarlo. Molto probabile. Le giudico senza eccezione le ragazze più volgari di Highbury. Poiché Harriet aveva qualche commissione da sbrigare da Ford, Emma credette prudente accompagnarla. Un altro casuale incontro coi Martin era possibile e nel suo stato d'animo presente pericoloso. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it